Madre e figlio camminavano frettolosi. Spesso il bambino doveva correre, ma non si stancava, era abituato a camminare e a misura che scendeva si sentiva più agile, caldo, vispo come un uccello. Più volte chiese: "Dove andiamo, mamma mia?" "A cogliere castagne", disse ella una volta, "e poi in campagna, lo vedrai." Anania scendeva, correva, inciampava, rotolava. Ogni tanto si palpava il petto in cerca del sacchettino. La nebbia diradavasi. In alto il cielo appariva di un azzurro umido, solcato come da grandi pennellate di biacca. Le montagne si delineavano livide nella nebbia. Un raggio giallo di sole illuminava finalmente la chiesetta di Gonare sulla cima del monte piramidale che sorgeva su uno sfondo di nuvole color piombo. "Andiamo là?" domandò Anania, additando un bosco di castagni umidi di nebbia e carichi di frutti spinosi spaccati. Un uccellino strideva nel silenzio dell'ora e del luogo. "Più avanti", disse Olì. Anania riprese le sue corse sfrenate. Mai si era spinto tanto avanti nelle sue escursioni ed ora questo continuo scendere a valle, la natura diversa, l'erba che copriva le chine, i muri verdi di musco, le macchie di noccioli, i cespugli coperti di bacche rosse, gli uccellini che pigolavano, tutto gli riusciva nuovo e piacevole. La nebbia svaniva, il sole trionfante schiariva le montagne, le nuvole sopra Monte Gonare avevano preso un bel colore giallo roseo, sul cui sfondo la chiesetta appariva chiara e sembrava vicina a chi la guardava. "Ma dov'è questo diavolo di luogo?" chiese Anania, volgendosi a sua madre con le manine aperte e fingendosi sdegnato. "Subito, subito, sei stanco?" "No, non sono stanco", egli gridò rimettendosi a correre. Arrivò però il momento in cui egli cominciò a sentire un piccolo dolore alle ginocchia, allora rallentò la corsa, si pose a fianco di Olì e cominciò a chiacchierare, ma la donna, col suo fagotto sul capo, il viso livido e gli occhi cerchiati, gli badava appena e rispondeva distratta. "Torneremo stanotte?" egli chiedeva. "Perché non me lo avete lasciato dire a Zuanne?" È lontano il bosco, è a Mamoiada?" Sì, a Mamoiada." "Ah, a Mamoiada. Quando c'è la festa a Mamoiada. È vero che Zuanne è stato a Nuoro? Questa è la strada di Nuoro, io lo so, e ci vogliono 10 ore a piedi per arrivare a Nuoro. Voi siete stata a Nuoro? Quando è la festa a Nuoro?" "È passata, era l'altro giorno", disse Olì scuotendosi. "Ti piacerebbe stare a Nuoro? Altro che. E poi, tu sai che a Nuoro c'è tuo padre", rispose Olì, indovinando il pensiero del fanciullo. "Ti piacerebbe stare con lui?" Anania ci pensò, poi disse con vivacità, corrugando le sopracciglia: "Sì." A che pensava egli dicendo quel sì? La madre non indagò oltre, chiese soltanto: "Vuoi che ti conduca da lui?" "Sì." Verso mezzogiorno si fermarono presso un orto dove una donna con le sottane cucite fra le gambe a guisa di calzoni zappava vigorosamente. Un gatto bianco le andava dietro, slanciandosi di tanto in tanto contro una lucertola verde che appariva e scompariva fra le pietre del muro. Anania ricordò sempre questi particolari. La giornata si era fatta tiepida, il cielo azzurro, le montagne come asciugantisi al sole apparivano grigie, chiazzate di boschi scuri. Il sole, quasi scottante, riscaldava l'erba e faceva scintillare l'acqua dei ruscelli. Olì sedette per terra. Aprì il fagotto e chiamò Anania, che si era arrampicato sul muro per guardare la donna e il gatto. In quel momento apparve allo svolto della strada la corriera postale di Fonni, guidata da un omone rosso coi baffi gialli. Olì avrebbe voluto nascondersi, ma l'omone, che pareva ridesse continuamente perché aveva le guance gonfie, la vide e gridò: "Dove vai, donnina?" "Dove mi pare e piace", ella rispose a voce bassa. Anania, ancora arrampicato sul muro, guardò entro la vettura e, vedendola vuota, disse al carrozziere: "Prendetemi, zio Battista, prendetemi nella vettura, prendetemi." "Dove andate dunque?" gridò l'omone, rallentando la corsa. "Ebbene, che tu sii sbranato. Andiamo a Nuoro, vuoi farci la carità di prenderci un po' in vettura?" disse Olì, mangiando. "Siamo stanchi come asini." Senti, rispose l'omone, va al di là di Mamoiada, intanto che io faccio la fermata, vi prenderò. Egli tenne la promessa. Giunto al di là di Mamoiada, fece sedere in serpe accanto a lui i due viandanti e cominciò a chiacchierare con Olì. Anania, veramente stanco, sentiva con vivo piacere nel trovarsi seduto fra sua madre e l'omone che scuoteva la frusta, davanti ai freschi paesaggi dallo sfondo azzurrino che si disegnavano nell'arco del mantice. Le grandi montagne erano scomparse, scomparse per sempre. E il bambino pensava a quello che avrebbe detto Zuanne sapendo di questo viaggio. Oh, quando tornerò, quante cose avrò da dirgli, pensava. Gli dirò, io sono stato in carrozza e tu no. Perché diavolo vai a Nuoro? Insisteva l'omone rivolto ad Olì. Ebbene, vuoi saperlo? Ella rispose finalmente. Vado per mettermi a servire. Ho già fatto il contratto con una buona signora. A Fondi non potevo più vivere. La vedova di Zuanne a Tonsu mi ha cacciato di casa. Ma non è vero, pensò Anania. Perché sua madre mentiva? Perché non diceva la verità, che cioè andava a Nuoro per cercare il padre di suo figlio? Basta, se ella diceva le bugie doveva avere le sue buone ragioni e Anania non indagò oltre, tanto più che aveva sonno. Chinò la testina sul grembo della madre e chiuse gli occhi. Chi c'è ora nella cantoniera? Chiese ad un tratto lì, mio padre non c'è più? Non c'è più. Ella diede un profondo sospiro. La vettura si fermò un momento, poi riprese la sua corsa e Anania finì per addormentarsi. A Nuoro egli provò una forte delusione. Era questa la città? Sì, le case erano più grandi di quelle di Foni, ma non tanto come egli si era immaginato. E le montagne poi. Cupe sul cielo violaceo del freddo tramonto erano addirittura piccole, quasi da far ridere. Inoltre i bambini che si incontravano per le strade, le quali a dire il vero gli parevano molto larghe, lo impressionavano stranamente perché vestivano e parlavano in modo diverso dai bambini fonnesi. Madre e figlio girovagarono per Nuoro fino al cader della sera ed infine entrarono in una chiesa. C'era molta gente. L'altare ardeva di ceri, un canto dolce si univa ad un suono ancor più dolce che veniva non si sa da dove. Ciò parve veramente bello ad Anania, che pensava a Zuanne e al piacere di narrargli quanto ora vedeva. Olì gli disse all'orecchio: Vado a vedere se c'è l'amica presso cui andremo a dormire. Non muoverti di qui finché non torno io. Egli rimase solo in fondo alla chiesa. Sentiva un po' di paura, ma si distraeva guardando la gente, i ceri, i fiori, i santi. E poi l'incoraggiava il pensiero dell'amuleto nascosto sul suo seno. A un tratto si ricordò di suo padre. Ah, dov'era egli? Perché dunque non andavano a trovarlo? Olì tornò presto, attese che la novena fosse terminata, prese Anania per la mano e lo fece uscire. Per una porta diversa da quella dove erano entrati. Camminarono per diverse vie finché non vi furono più case. Era già sera, faceva freddo, Anania aveva fame e sete, si sentiva triste e pensava al focolare della vedova e alle castagne e alle chiacchiere di Zuanne. Arrivarono in un viottolo chiuso da una siepe, dietro la quale si vedevano le montagne che avevano colpito il bimbo per la loro piccolezza. Senti, disse Olì e la voce le tremava. Hai visto quell'ultima casa con quel gran portone aperto? Sì. Là dentro c'è tuo padre. Tu vuoi vederlo, non è vero? Senti, ora torniamo indietro. Tu entri nel portone, di fronte al quale vedrai una porta pure aperta. Tu entri là e guardi. C'è un molino dove fanno l'olio, un uomo alto, con le maniche rimboccate, a capo scoperto. Va dietro al cavallo. Quello è tuo padre. Perché non venite dentro anche voi? Domandò il bimbo. Olì cominciò a tremare. Io entrerò dopo di te. Tu vai innanzi. Appena entrato dici: Io sono il figlio di Olì de Rios. Hai capito? Andiamo. Ritornarono indietro. Anania sentiva sua madre tremare e battere i denti. Giunti davanti al portone, ella si chinò. Accomodò il sacchetto sulle spalle del bimbo e lo baciò. Va, va, disse spingendolo. Anania entrò nel portone, vide l'altra porta illuminata ed entrò. Si trovò in un luogo nero nero, dove una caldaia bolliva sopra un forno acceso e un cavallo nero faceva girare una grande e pesante ruota oleosa entro una specie di vasca rotonda. Un uomo alto con le maniche rimboccate, a capo scoperto, con le vesti sucide, nere di olio, andava appresso al cavallo, rimuovendo entro la vasca con una pala di legno le olive frantumate dalla ruota. Altri due uomini andavano e venivano spingendo in avanti e indietro una spranga infilata in un torchio dal quale colava l'olio nero e fumante. Davanti al fuoco stava seduto un ragazzetto con un berretto rosso e fu questo ragazzetto che primo si accorse del bimbo straniero. Lo fissò bene e credendolo un mendicante gli impose aspramente: «Va via!» Anania, timido, immobile sotto il suo sacchetto, non rispose. Vedeva tutto confuso ed aspettava che sua madre entrasse. L'uomo dalla pala lo guardò con occhi lucenti, poi si avanzò e chiese: «Ma che cosa vuoi?» «Quello era suo padre?» Anania lo guardò timidamente, pronunziando con vocina sottile le parole suggeritegli da sua madre: «Io sono il figlio di Olyderios.» I due uomini che giravano il torchio si fermarono di botto e uno di essi gridò: «Tuo figlio!» L'uomo alto gettò per terra la pala, si curvò su Anania, lo fissò, lo scosse, gli chiese: Chi ti ha mandato? Cosa vuoi? Dov'è tua madre?» «È fuori, adesso verrà.» Il mugnaio corse fuori, seguito dal ragazzetto col berretto rosso, ma Olì era scomparsa e nulla più si seppe di lei. Avvertita del caso, accorse zia Tatana, la moglie del mugnaio, una donna non più giovane ma ancora bella, grassa e bianca, con dolci occhi castanei circondati di piccole rughe e un po' di baffi biondi sul labbro rialzato. Ella era tranquilla, quasi lieta. Appena entrò nel mulino, prese Anania per gli omeri, si chinò, lo esaminò attentamente. «Non piangere, poverino», gli disse con dolcezza. «Orora ella verrà e voi, zitti!» impose agli uomini e al ragazzetto che si mischiava forse un po' troppo nella faccenda. E fissava Anania con due piccoli occhi turchini cattivi e un sorriso beffardo nel rosso visino paffuto. «Dov'è andata? Non viene dunque? Dove la ritroverò?» si domandava con disperazione il piccolo abbandonato piangendo sconsolatamente. «Ella avrà avuto paura. Dove sarà adesso? Perché non viene? E quell'uomo lurido, oleoso, cattivo, quello è suo padre?» Le carezze e le dolci parole di zia Tatana lo confortarono alquanto. Cessò di piangere, si leccò le lacrime, se le sparse di qua e di là delle guance, col gesto che gli era abituale. Poi subito pensò alla fuga. La donna, il mugnaio, gli uomini, il ragazzetto, tutti gridavano, imprecavano, ridevano e si bisticciavano. «È proprio tuo figlio, tale e quale», diceva la donna rivolta al mugnaio. E il mugnaio gridava: «Non lo voglio, no, non lo voglio!» «Sei ben scomunicato, sei senza viscere, santa Caterina mia, è possibile che vi siano uomini così malvagi?» diceva zia Tatana, un po' scherzando, un po' sul serio. «Ah, Anania, Anania, sei sempre tu!» «E chi dunque vuoi che io sia? Ora vado subito in questura.» «Tu non andrai in nessun posto, stupido! Tu vuoi tirar fuori di tasca le tue corna per mettertele sul capo?» osservò energicamente la donna. Ma siccome gli insisteva, ella disse: «Ebbene, andrai domani. Ora finisci il tuo lavoro e ricordati ciò che diceva il re Salomone: la furia della sera, lasciala alla mattina.» I tre uomini tornarono al lavoro, ma spingendo sotto la ruota la pasta delle olive frante, il mugnaio gridava, borbottava, imprecava, mentre gli altri lo deridevano e la moglie gli diceva tranquillamente: «Via, non prenderti poi la porzione più grande.» «Dovrei arrabbiarmi io, santa Caterina mia. Ricordati, Anania, che Dio non paga il sabato.» «Taci, taci, figliolino mio», disse poi al bambino che singhiozzava nuovamente. «Domani aggiusteremo tutto, eh? Ecco, così gli uccelli volano dal nido appena hanno le ali.» «Ma sapevate voi che quest'uccellino esisteva?» chiese ridendo uno dei due uomini che spingevano la spranga. «Dove sarà andata tua madre? Com'è fatta? Dimmi, domandò il ragazzetto mettendosi davanti ad Anania. Voi stia meddu, gridò il mugnaio. Se non te ne vai ti mando via a calci. Provate un po', disse egli spavaldo. E diglielo dunque tu, com'è fatta olì, esclamò uno dei due uomini. L'altro rise tanto che dovette abbandonare la spranga e premersi il petto. Intanto, zia Tatana, premurosa e carezzevole, interrogava il bambino, esaminandogli le povere vestine. Egli raccontò tutto, con vocina incerta e lamentosa, ogni tanto interrotta da singhiozzi. Oh, poverino, poverino, uccellino senz'ali, senz'ali e senza nido, diceva pietosamente la donna. Taci, anima mia, tu avrai fame, non è vero? Adesso andiamo a casa e zia Tatana ti darà da mangiare e poi ti manderà a letto con l'angelo custode, eh? E domani aggiusteremo tutte le cose. Con questa promessa, ella lo condusse in una casetta vicina al molino e gli diede da mangiare pane bianco e formaggio, un uovo e una pera. Mai Anania aveva mangiato tanto bene e la pera, dopo le carezze materne e le dolci parole di zia Tatana, finì di confortarlo. Domani, diceva la donna. Domani, ripeteva il fanciulletto singhiozzando. Mentre gli mangiava, zia Tatana, che preparava la cena per il marito, lo interrogava e gli dava buoni consigli, avvalorandoli con l'affermare che erano già stati dettati dal re Salomone e anche da Santa Caterina. Ad un tratto, sollevando gli occhi, ella scorse alla finestruola il visetto paffuto di Bustianeddu. «Va via!» disse. «Va via, piccola rana, fa freddo!» «Lasciatemi dunque entrare!» egli supplicò. «Fa freddo davvero!» «Va dunque al molino!» «No, c'è mio padre che mi ha mandato via!» «Ih, quanta gente è venuta là!» «Bah, entra dunque, povero orfano, anche tu senza madre!» «Che cosa dice, zio Anania? Grida ancora?» Oh, lasciatelo gridare, consigliò Bustianeddu, sedendosi accanto ad Anania e raccogliendo e rosicchiando il torso della pera, abbastanza rosicchiato e già buttato via dal piccolo straniero. Son venuti tutti, raccontò poi parlando e gestendo come un uomo maturo. Maestro Pane, mio padre, zio Pera, quel bugiardone di Franziscu Carchide, zia Corredda, tutti vi dico, insomma. Che cosa dicevano? Chiese la donna con viva curiosità. Tutti dicevano che dovete adottare questo bambino e zio Pera diceva ridendo: Anania, e a chi dunque lascerai i tuoi beni se non tieni il bambino? Zio Anania lo rincorse con la pala. Tutti ridevano come pazzi. La donna dovette essere vinta dalla curiosità perché a un tratto raccomandò a Bustianeddu di non lasciar solo Anania ed uscì per tornare al molino. Rimasti soli, Bustianeddu cominciò a fare qualche confidenza al piccolo abbandonato. Mio padre ha 100 lire nel cassetto del canterano e io so dov'è la chiave. Noi abitiamo qui vicino e abbiamo un podere per il quale paghiamo 30 lire di imposta. Ma l'altra volta venne il commissario e sequestrò l'orzo. Cosa c'è qui, dentro il tegame, che fa crac crac crac? Ti pare che prenda fumo? Sollevò il coperchio e guardò. Diavolo, ci son patate. Credevo fosse altro. Beh, ora assaggio. Con due ditina prese una fetta bollente, ci soffiò sopra più volte, se la mangiò, ne prese un'altra. Che cosa fai? Disse Anania con un po' di dispetto. Se viene quella donna? Noi sappiamo fare i maccheroni, io e mio padre, riprese imperturbato Bustianeddu. Tu li sai fare? E il sugo? Io no, disse Anania melanconico. Pensava sempre a sua madre, assediato da tristi domande. Dov'era andata? Perché? Non era entrata nel mulino. Perché lo aveva abbandonato e dimenticato? Adesso che aveva mangiato e sentiva caldo, egli aveva voglia di piangere ancora, di fuggire. Fuggire, cercare sua madre. Questa idea lo afferrò tutto e non lo lasciò più. Poco dopo rientrò zia Tatana, seguita da una donna lacera, barcollante, che aveva un gran naso rosso ed una enorme bocca livida dal labbro inferiore penzolante. «È questo? È questo l'uccellino?» chiese balbettando l'orribile donna. E guardò con tenerezza il piccolo abbandonato. «Fammi vedere la tua faccina, che tu sii benedetto, è bello come una stella, in verità santa. E lui non lo vuole? Ebbene, Tatana Atonzu, raccoglilo tu, raccoglilo come un confetto!» Si avvicinò e baciò Anania, che torse il viso con disgusto perché l'enorme bocca della donna puzzava d'acquavite e di vino. «Zia Nanna», disse Bustianeddu facendo cenno di bere, «oggi l'avete presa giusta, eh? Cosa sai tu? Che fai qui? Moscherino, povero orfano, va a letto!» «Anche tu dovresti andare a letto», osservò zia Tatana. «Andate, andate via tutti e due, è tardi!» E spinse dolcemente l'ubriaca. Ma prima d'uscire ella chiese da bere, e Bustianeddu riempì d'acqua una scodella e gliela porse. Ella la prese con buona grazia, ma appena ebbe guardato dentro, scosse il capo e la rifiutò. Poi andò via, traballando. Zia Tatana mandò via anche Bustianeddu e chiuse la porta. «Tu sarai stanco, anima mia. Adesso ti metterò a dormire», disse ad Anania, conducendolo in una grande camera attigua alla cucina e aiutandolo a spogliarsi. «Non avere paura, sai, domani tua madre verrà o andremo a cercarla noi. Sai farti il segno della croce? Sai il credo? Sì, bisogna recitare il credo tutte le notti. Poi io ti insegnerò tante altre preghiere, una delle quali per San Pasquale, che ci avvertirà dell'ora della nostra morte. E così sia. Ah, tieni anche la rezzetta. E com'è bella. Sì, bravo, San Giovanni ti proteggerà. Sì, egli era un bimbo ignudo come te, eppure battezzò Gesù, Signore nostro. Dormi, dormi, anima mia, in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Amen». Anania si trovò in un gran letto dai guanciali rossi. Zia Tatana lo coprì bene ed uscì, lasciandolo al buio. Egli mise la manina sull'amuleto, chiuse gli occhi e non pianse, ma non poté dormire. Domani, domani. Ma quanti anni erano trascorsi dopo la partenza da Fonni, che pensava a Zuanne non vedendo ritornare l'amico. Pensieri confusi, immagini strane gli passavano nella piccola mente, ma la figura della madre non lo abbandonava mai. Dove era andata? Aveva freddo. Domani la rivedrebbe. Domani, se non lo conducevano da lei, egli fuggirebbe. Domani. Sentì il mugnaio rientrare e litigare con la moglie. Il cattivo uomo gridava: «Non lo voglio! Non lo voglio!» Poi tutto fu silenzio. Ad un tratto qualcuno aprì l'uscio, entrò. Camminò in punta di piedi, s'avvicinò al letto e sollevò cautamente la coperta. Un baffo ispido sfiorò lievemente la guancia di Anania ed egli, che fingeva di dormire, socchiuse appena appena un occhio e vide che chi l'aveva baciato era suo padre. Pochi momenti dopo, zia Tatana entrò e si coricò nel gran letto a fianco di Anania, che la sentì lungamente pregare, bisbigliando e sospirando.